Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Panino Giusto e Antonio Civita, un marchio che da 30 anni porta il panino made in Italy in giro per il mondo. Di Adriano Palazzolo. La storia che vi raccontiamo oggi parte dall'insegna di un locale che vede la luce l'8 febbraio 1979 nel cuore di Milano, in Corso Garibaldi. Panino Giusto nasce infatti 38 anni fa per iniziativa di Enzo Iannetti, all'epoca 24enne proveniente dall'Abruzzo, che ispirato dalla Milano da bere di quegli anni, sogna per contrapposto una Milano da imbottire. Al sogno di creare una catena di locali che offrono panini con ingredienti italiani di qualità, partecipano altri due soci, ma nei 30 anni successivi l'azienda vede l'avvicendarsi di diverse compagnie societarie. È il 2010 però che segna la svolta del marchio Panino Giusto, anno in cui Antonio Civita, oggi amministratore delegato, rileva l'intera proprietà. Ed è proprio lui a raccontarci cosa succede prima di questa data fondamentale per la rinascita del brand. Panino Giusto nasce dall'idea di tre persone che credevano di fare un locale molto contemporaneo, molto nuovo, puntando su un panino di altissima qualità. È rispettata ancora oggi questa tradizione, cioè l'idea di dare al panino italiano, la stessa dignità dei piatti più importanti della cucina italiana. Poi succede che nei successivi 25 anni aprono ancora nuovi locali su Milano e iniziano delle prime esperienze all'estero. La prima esperienza all'estero fu in Giappone alla fine degli anni 90, a Tokyo. Aprirono due punti vendita e sono ancora aperti tutt'oggi. Diciamo che in quegli anni, negli anni 80, 90, anche 2000, Panino Giusto diventa un brand molto forte a Milano, molto milanese e molto apprezzato soprattutto dai clienti milanesi. In quegli anni Antonio Civita vive ancora a Roma, dove avvia una serie di attività nel settore elettrico, con alcune incursioni imprenditoriali anche nel campo della ristorazione. È con l'arrivo a Milano e grazie all'incontro con una donna, che poi diventerà sua moglie, che scopre il marchio che cambierà la sua vita. Da cliente amavo l'idea di una novità così importante, che era quella di un panino italiano che poteva rappresentare all'estero una novità importante della gastronomia italiana. Questo è stato il legame più importante verso quest'idea, insieme a, da cliente, esperienze che mi sembravano uniche rispetto a tutti gli altri competitor, a tutte le altre attività di ristorazione. Elena, mia moglie, lavorava in un'attività finanziaria, in un'azienda finanziaria alle spalle di Piazza Beccaria, e un giorno di primavera del 98, non ricordo quale, mi portò a mangiare nel Panino Giusto di Piazza Beccaria. E io realmente mi innamorai da subito, perché era un concept completamente diverso dalle attività tipiche che si trovano a Roma. In realtà poi il punto di svolta fu quando un Panino Giusto aprì proprio di fronte a casa nostra, in Porta Venezia. Da lì andavamo lì tutti i giorni, da sposini, e un giorno ebbi l'idea di chiedere a loro, alla proprietà di allora, di poter aprire in franchising come affiliato un locale. Dal 1998 al 2004 Antonio Civita dunque si gode i panini da semplice cliente. Poi decide di fare il grande passo, senza però chiudere immediatamente le sue attività a Roma. Si trasferisce a Milano e apre un primo locale in affiliazione ad Assago. È un immediato successo. Lavorando all'interno di questo brand, Antonio studia e capisce meglio il format. Da lì inizia la sua scalata all'interno dell'azienda. Dal 2004 al 2010 apriamo diversi locali a brand Panino Giusto, il primo ad Assago, il secondo a Sesto San Giovanni, poi continuiamo altre aperture nell'Iterland di Milano, e quindi diciamo che io da affiliato riesco a fare esperienza da dentro del brand, potendone riscoprire e scoprire meglio tutte le qualità, ma anche le cose che avrei voluto cambiare il momento che ne avessi avuto la possibilità. Panino Giusto aveva basato tutto da sempre sulla qualità del prodotto, quindi noi ancora oggi siamo riconosciuti come un'attività basata sulla qualità della nostra materia prima, ma l'idea che io da sempre ho avuto è che ormai la qualità del prodotto non è più sufficiente per creare un brand di grande successo. Le tre gambe della ristorazione sono il prodotto, il servizio e l'ambiente. Quindi la prima cosa che ho pensato è: bisogna lavorare sull'ambiente, bisogna lavorare sul servizio. Il successo dei punti vendita porta con sé molto ottimismo. Al primo locale se ne aggiungono altri 7 nel corso degli anni. Nel frattempo anche la famiglia si allarga. Arrivano 3 figli. Nel 2010 giunge il momento di acquisire l'intera catena Panino Giusto, con altri 5 locali in franchising e 5 di proprietà, con un investimento economico che oggi è arrivato a 20 milioni di euro. Ma è soltanto l'inizio. Dal 2010 da subito abbiamo capito che avremmo avuto bisogno di 5 anni di importanti investimenti per stravolgere alcuni concetti che erano dei must all'interno di Panino Giusto e per creare la piattaforma per poterlo sviluppare credibilmente in tutto il mondo. Il primo elemento importante è stato quello di aver costruito un'accademia che è stata una vera scuola di formazione per tutto il nostro personale, che ancora oggi esiste e che è stato, diciamo, lo strumento indispensabile per fare in modo che il nostro tipo di ristorazione diventasse una professionalità ben definita anche in Italia. Noi facciamo parte di un segmento che si chiama il fast casual, che in Italia è agli albori. All'estero è un segmento molto ben definito perché unisce la velocità del fast food alla qualità del fine dining. Gli elementi che abbiamo da subito voluto cambiare e che vedevamo come una criticità sono stati tutti quelli che non si portavano appresso la vera italianità. Il nostro design oggi è un design che richiama gli elementi dell'italianità. Anche la nostra nuova immagine è totalmente legata al mondo italiano, perché, come ripeto, quello che era da subito stato il nostro obiettivo era quello di trasformare un'attività nata con l'idea originale di mettere al centro un panino eccellente, ma senza avere da subito la coerenza intorno di creare un ambiente, un servizio ed una company totalmente legata all'italianità. Oggi Panino Giusto è composta da 22 punti vendita in Italia, in Lombardia, Lazio e Sardegna, e di 7 locali all'estero, a Londra, a Tokyo, a Hong Kong e a Cupertino, in California. L'ambizione per i prossimi anni non è quella di un'espansione a macchia di leopardo, ma di sviluppare le realtà già esistenti all'estero, dove è tanta la voglia di Made in Italy, soprattutto nel cuore della Silicon Valley. La Silicon Valley è in eccellenza un posto dell'innovazione, quindi portare un prodotto originale come il nostro ci sembrava interessante. La California tutta è da sempre stata pioniere nelle novità della ristorazione in tutta America e quindi poter stabilizzarci e consolidarci lì per noi può significare entrare dalla porta principale per tutto il mercato americano. C'è un progetto di 10 aperture in California. Il primo locale aperto nella zona della Apple ci sta dando delle soddisfazioni straordinarie, oltre quelle che potevamo aspettarci, e soprattutto legato ai commenti dei clienti, che apprezzano in maniera assolutamente genuina la nostra offerta. Quindi stiamo facendo già delle revenue molto interessanti, ma quello che ci lascia ben sperare è proprio clienti che tornano costantemente a vivere la stessa esperienza. Antonio Civita, che ci sta raccontando questa storia, gestisce con la moglie Elena Riva, che ne è presidente, un'azienda il cui ultimo fatturato è stato di 31 milioni e mezzo di euro. I 400 dipendenti nei 27 locali presenti in 5 paesi del mondo preparano ogni anno oltre 1 milione di panini. Numeri che, nelle ambizioni dei proprietari, puntano alla crescita nell'immediato futuro. Devo dire che noi stiamo vivendo da diversi anni una crescita stesso perimetro costante. Io credo che se si investe sulla qualità e si riesce ad essere sempre innovativi, i clienti apprezzano questo. Ed è quello che noi stiamo vivendo. Le mie aspettative di sviluppo per il futuro sono raddoppiare il numero dei locali nei prossimi 4 anni, e gli attuali impegni e gli attuali contratti prevedono proprio questo, e sono indicativamente per il 2020 un'apertura del capitale molto probabilmente tramite un IPO, un processo che abbiamo già iniziato con il progetto Elite, per poter fare poi il secondo round, quindi quello che andrà dal 2020 al 2025, con uno sviluppo molto importante soprattutto in America. Progetti importanti che però non includono obbligatoriamente i figli di Antonio ed Elena. Sul futuro dei figli i genitori hanno le idee molto chiare e sono convinti che un percorso già prestabilito non sia la soluzione migliore, senza però chiudere definitivamente la porta a un eventuale loro ingresso. Spero che loro non entrino, che seguano il loro percorso personale e legato alle attitudini personali, anche perché non sono così fan delle aziende familiari, nel senso che la mia azienda l'ho creata io da zero e le aspettative che spesso i figli vivono entrando in un'azienda familiare non sempre sono vissute come un'opportunità, ma talune volte come un obbligo. Quindi se da parte loro ci sarà la volontà al termine del loro percorso formativo di scuola e di un primo percorso di esperienze lavorative fuori dall'azienda, di entrare in panino giusto e ne avranno le competenze, è evidente che saremo felici. Ma se preferiranno fare i chirurghi o i medici o i piloti, probabilmente ne sarò ancora più felice. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.